La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge. L'articolo 15 ci pone il terzo diritto di libertà, libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, anche qui con la medesima garanzia. Sono inviolabili, quindi libertà della persona, libertà del domicilio, libertà della comunicazione. Il nucleo duro di questi tre valori che sono l'espressione della libertà fondamentale della persona. È interessante come la Costituzione non copra liberi e segreti solo la corrispondenza, ma anche ogni altra forma di comunicazione. Quindi, in questo modo, la giurisprudenza ovviamente ricomprende, per esempio, oggi quella che può essere la posta elettronica nella garanzia dell'articolo 15. L'articolo 15 ancora non garantisce solo la segretezza della comunicazione, ma anche la libertà. Sono cose diverse, perché io sono libero di comunicare, non comunicare, completamente, ma quando comunico devo essere garantito nella mia segretezza. Ovviamente comunicazione è diversa dalla manifestazione del pensiero, perché manifestazione del pensiero, articolo 21, è rivolta a destinatari indeterminati. La comunicazione è quando si ha un destinatario preciso. Telefonata, lettera, email, messaggio telefonico, sono tutte forme di comunicazione a cui la Costituzione dà la piena garanzia. Anche qui, limitabili solo per atto motivato dall'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge. Perché anche qui? Perché come la libertà personale, come la libertà di domicilio, anche la corrispondenza ha sempre la doppia garanzia. Non solo la limitazione deve essere prevista dalla legge, la legge è il massimo atto di espressione della volontà popolare, perché è approvata dal Parlamento che è eletto dal popolo, ma accanto alla previsione in legge serve che sia il giudice e non soltanto l'amministrazione a porre direttamente la limitazione. Anche qui un altro aspetto: chi è il titolare di questa libertà? La Costituzione non ci dice, non chiarisce tutti i cittadini, e quindi è la titolarità più ampia possibile, cioè la comunicazione è garantita per qualsiasi individuo, cittadino e non cittadino, ma anche per le comunicazioni che vengono da enti, da collettività, perché sono libertà fondamentali della persona e del gruppo.